prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Il nostro secondo appuntamento insieme alla Caritas Diocesana di Padova, nel cuore ormai della Settimana Santa, ci porta a parlare di pasti dello sportello Buoni Pasto, che è attivo alla sede della Caritas Diocesana in via Bonporti. Lì ci lavorano due volontari e un coordinatore, tre persone in tutto. Noi ne conosciamo una, appunto, di queste che prestano questo importante servizio, la signora Grazia, che è al telefono con noi. Buongiorno Grazia. Buongiorno. Da molti anni, non diciamo quanti, ma diversi anni, lei si occupa appunto di volontariato, di servizio all'interno della Caritas, e da qualche anno anche di questo sportello Buoni Pasto, che distribuisce, lo diciamo subito, i buoni che danno diritto per un intero mese ad accedere alle cucine economiche popolari, quelle di Sorlia, perché molti poi le conoscono così. Ma per arrivare a ricevere appunto questo buono dal valore mensile, spieghiamo che cosa c'è prima, perché c'è tutto un lavoro che voi fate prima. Certo, sì, queste persone si rivolgono appunto a noi perché si trovano in uno stato di necessità e pertanto noi le accogliamo, facciamo un colloquio e da questo colloquio si decide, insomma, se c'è questa necessità, ecco. Persone appunto che hanno magari bisogno del pasto, di un pasto quotidiano, almeno per un periodo che può essere anche limitato nel tempo. In base a cosa voi decidete se una persona può avere questo buono pasto oppure no? Beh, innanzitutto abbiamo tutte le persone che sono senza fissa dimora e di conseguenza hanno diritto, insomma, a questo buono. Poi ci sono gli ospiti del Torresino e va bene, e poi le persone che appunto per un periodo magari transitorio si trovano in stato di necessità e quindi viene erogato, insomma, questo buono, ecco. Complessivamente di che quantità di persone parliamo mensilmente? Ma andiamo all'incirca 80-90 buoni, insomma. Al mese. Ecco, noi ci occupiamo solo degli italiani, eh? I buoni pasto italiani, mentre i buoni pasto stranieri vengono erogati da un'altra parte, dai frati di Sant'Antonio. Ecco, quindi del pane dei poveri. Sì, esatto, anche questa distinzione è importante, quindi chi è cittadino italiano ha la possibilità di andare in via Bonporti alla Caritas e chiedere appunto dello sportello Buoni Pasto. Negli anni si è sempre detto appunto che la crisi ha fatto aumentare anche gli accessi agli sportelli e ai centri di ascolto della Caritas. In questi anni voi come avete visto la situazione? Di più, di meno, sono cambiati? Ma rispetto ad anni addietro siamo sicuramente sono diminuiti anche perché adesso i buoni pasto vengono dati appunto con questo criterio del colloquio e quindi c'è, tra virgolette, diciamo una cernita, ecco. E quindi forse probabilmente per quello, ecco, che... Certo, a parte le persone appunto che ci diceva prima Grazia, le persone senza fissa dimora, che ovviamente sono tra virgolette, passatemi l'espressione, clienti fissi, perché sono sempre presenti. Negli altri casi per quanto dura questo tipo di servizio? Un mese, due mesi, un anno? Ma dipende, perché noi a darli non è che, insomma, ci sono grossi problemi, lo diamo. Poi là dove vediamo che, insomma, c'è bisogno di ricontattare la persona, dato che il buono vale un mese e poi devono venire a rinnovarlo, nell'occasione del rinnovo facciamo un altro colloquio e vediamo se è il caso di ripeterlo oppure di prorogarlo, ecco. Ecco, immagino. Noi tendiamo sempre di restringere un po', ma non per il fatto che bisogna darne meno, ma proprio per il fatto di vedere se trovano anche altre risorse, certo, le persone che non si adagino. Ecco, infatti, questo. Sì, che non trovino una sicurezza anche in questo, sì, ma che si riattivino. Perché, esatto, e quindi cerchiamo di promuovere questo, insomma, non che le persone sanno di avere il loro pasto quotidiano e basta e si arenano lì, no. Ecco, è un ruolo educativo anche questo, diciamo. Certo, assolutamente. Sì, sì. Dici che addirittura con certe persone il buono pasto, d'accordo con loro, proprio per non cadere in questa situazione di abitudine, depeniamo già dei giorni noi, assieme alla persona, insomma. Sì. Ecco, proprio perché non cadano in questa abitudine. E addirittura alle volte con questo sistema piano piano andiamo a scalare fino a quando non vengono più. Perché, per esempio, ci sono anche delle persone che hanno la casa, no? Sì. Abitano, magari hanno fatto un passaggio dal Torresino, sono passati ad avere la casa, eccetera, ma abituati ad avere il buono pasto. Pur avendo l'abitazione, fanno difficoltà, preferiscono andare da suor lì perché non devono cucinare, non devono fare la spesa, è pronto. Certo, è tutto pronto, certo. Ed è più comodo, ma insomma, certo, poi certo, questa comodità, certo, non è... ci non devono è sempre... abituare anche, certo, a questo. Ad essere e così, autonomi. Esatto, e quindi e in questa maniera li accompagniamo piano piano, ecco, non è che c'è una fretta che nel giro di un mese devono abituarsi, piano piano li abituiamo in maniera tranquilla, loro prendono la loro routine del farsi da mangiare e provvedere a se stessi. Ogni quanto fate i colloqui? E beh, come le dicevo prima, i colloqui vengono fatti subito inizialmente e poi là dove riteniamo che ci sono situazioni un po' particolari, anche ogni mese, li accompagniamo proprio anche ogni mese per un periodo e poi dopo si può ripetere, ma sono loro stessi che ti chiedono poi di fare un incontro, sono poi loro stessi, certo, per verificare, sì, se sì, la situazione hanno voglia, sì sì, hanno voglia proprio di raccontarsi un po', anche perché poi vedendoci, io parlo adesso delle persone più anziane, cioè quelle che da più tempo che vengono, sì, instaura anche una sorta di rapporto, chiamiamo così, di amicizia, di simpatia, sì, e quindi loro vengono lì, ti raccontano cosa hanno fatto nel mese e cosa è successo, quindi c'è anche questo tipo di rapporto, insomma. Eh sì, insomma, non c'è solo la fame del cibo, ma c'è, no, anche, c'è anche fame, anzi, quella forse è sì, assolutamente, secondaria. Anzi, quella del cibo è un mezzo, certo, per arrivare a colloquiare, sì, con, sì, con, sì, le persone. Sì, direi assolutamente, sì, sì, sì, sì, sì. E allora, la signora Grazia ci ha raccontato, salutiamo anche indirettamente anche le altre persone che svolgono questo servizio, lo sportello Buoni Pasto della Caritas, a tutti voi auguriamo buona Pasqua. Grazie, auguri anche a lei. Avete ascoltato Prossimo Tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.